Allora, il 30 dicembre 2011, I was wondering first if you could give us an overview of Todos Somos Japón. So Todos Somos Japón is a group of basically myself and a few friends of mine that got together after the March 11th Fukushima following the earthquake, the nuclear disaster in Fukushima in March. And, allora, la domanda era se ci può, se Yuko, che rappresenta Todos Somos Japón, ci poteva dare un'idea di che gruppo è e come si è formato e altre informazioni relative al gruppo. Ebbene, Yuko rispose che è composto da lei e amiche e amici riunitisi subito dopo, un paio di giorni dopo il disastro di Fukushima, e dice che sono tutte e tutti originari del Giappone, vivendo negli Stati Uniti da decenni, con base principalmente a New York, e sono in contatto con i movimenti giapponesi che contrastano non soltanto il nucleare ma anche altre politiche interne al Giappone. Comunque la cosa che principalmente ha spinto la formazione del gruppo era che temevano che le informazioni relative al disastro di Fukushima sarebbero state occultate, come in passato il governo aveva fatto con cosiddetti incidenti ad altri impianti nucleari. Temevano infatti che il tutto sarebbe stato insabbiato. Infatti, come è stato già osservato sulla Radio Onda Rossa, è proprio così che è successo, e loro contrastano, cioè si cimentano a contrastare questo tipo di insabbiamento, occultamento dei fatti di Fukushima. Avevano già formato un gruppo dal nome di Japan Fissures in the Planetary Apparatus, che vuol dire Giappone, fessure nell'apparato planetario, che era dedicato già alla traduzione di testi dal giapponese all'inglese e provenienti da movimenti in lotta, ma anche da fonti ufficiali, e il tutto per informare il resto del mondo quanto potevano e quanto possono sulla situazione giapponese, per diffondere informazioni che altrimenti non verrebbero a galla oltre il Giappone, oltre coloro che riescono a capire il giapponese. Todos Somos Japón, invece, che vuol dire siamo tutti Giappone, fa parte del progetto J. Fissures, Fessure Giappone, ma si tratta di un progetto ben più ampio che si dedica a connettere tutta la gente che lotta contro il nucleare in diverse parti del mondo. E quindi Todos Somos Japón è stata messa insieme nell'aprile del 2011, e da quel mese in poi si organizzano incontri, proteste, dibattiti, avvenimenti vari, ma anche l'invio addirittura di persone da New York al Giappone e viceversa, perché dapprima quello che si temeva di più era un isolamento totale del Giappone dal resto del mondo, e quindi loro volevano fare il loro meglio per agevolare la diffusione delle informazioni su quello che accade e che continua ad accadere non solo a Fukushima e dintorni, ma in tutto il paese, cioè in tutto il Giappone. Il nome Todos Somos Japón in particolare si ispira ai movimenti popolari in America Latina, e la cosa che è significativa è che una come Marina Citrin, che è coinvolta molto con il movimento spagnolo e anche con Occupy Wall Street, ma anche molto coinvolta con i movimenti in Argentina, ne fa infatti parte di questo gruppo. E poi invece Fessure Giappone si riferisce non solo alle spaccature fisiche delle placche tettoniche, che poi se si va a vedere in rete l'immagine di questo gruppo, si vede il Giappone con le spaccature vicino delle placche tettoniche, che poi provocano reazioni sismiche, come si è ovviamente riscontrato con il caso di Fukushima. Comunque non si riferisce soltanto alle spaccature dalle placche tettoniche, ma anche quelle nazionali, culturali, eccetera, no? Che dividono i popoli, e che tramite tragedie come quella di Fukushima si spera che tali spaccature possano essere ricucite per avviare lotte in comune. I mean, in Japan there are people who are organizing. Mm-hmm. You said they were autonomous. Yeah. Meaning autonomous from the parties or autonomous mm-hmm. in other ways or autonomous. Initially it started among a kind of loose collective of people called Shiroto no Ran. Shiroto no Ran? Yeah, it translates into like amateur riot. Allora, come domanda susseguente a quello di cui avevamo parlato, visto le rinnovate proposte di reintrodurre o introdurre altri impianti nucleari, ho chiesto a Yuko di descriverci la situazione attuale per quanto riguarda le azioni di protesta in Giappone. E come si collegano col loro gruppo. E allora mi racconta Yuko che ci sono state molte proteste già a partire da aprile, e queste proteste veramente erano piuttosto inaspettate. Quindi Toto Somos Japón si collega con queste cioè in pratica le loro azioni sono in solidarietà anche con le proteste, le manifestazioni varie che si organizzano in Giappone. Principalmente queste manifestazioni si sono svolte a Tokyo e si sono culminate nella manifestazione indetta per l'11 giugno del 2011 e queste proteste dovevano avvenire non soltanto in Giappone ma anche in qualsiasi altro paese dove si potesse organizzare qualche cosa del genere per portare avanti un discorso antinucleare ben oltre Fukushima. Quindi Todos Somos Japón ha organizzato manifestazioni a New York in riferimento a questa manifestazione indetta dell'11 giugno del 2011, come già detto, però le ha organizzate insieme a realtà locali che lottano contro impianti tipo quella di Indian Head a New York, dove vivo, cioè nei paraggi dove vivo anche io. Quindi persone come River Keepers e altre organizzazioni simili si sono unite a queste proteste dell'11 giugno in solidarietà con le lotte in Giappone. I gruppi vari, i componenti vari di Tokyo si riferiscono col nome Shiroto no Ran, che vuol dire rivolta dei dilettanti, che è un po' una maniera umoristica di organizzarsi per le proteste, e ne fanno parte gente scollegata completamente dalla politica istituzionale, sono organizzazioni che partono dal basso, sono radicate nella quotidianità giapponese e quindi riescono in tal modo a inserirsi anche in settori sociali in cui magari non ci sarebbe nessuna radicalità o potenziale radicalizzazione. Questi Shiroto no Ran organizzano anche mercatini, magari organizzano anche biciclettate di massa critica e altre cose varie che si collegano facilmente con le realtà piuttosto comuni di disagio che si vivono a Tokyo specialmente, ma anche in molte altre città. Ci furono comunque proteste anche antinucleari già 30-40 anni fa, però erano sempre proteste abbastanza piccole, con gruppettini, magari si raggiungeva un paio di centinaia di persone, ma questa volta, l'11 giugno, si raggiunse un numero elevatissimo in confronto. Più di 15.000 persone parteciparono alla manifestazione di quel giugno. È tra le più grandi in decenni, come dice Yuko. E tutto promette, almeno se si vuole essere ottimisti, un rinnovamento della società, un sviluppo di resistenza al potere, che ha dei potenziali enormi per cambiare lo stato delle cose in Giappone. Si stanno smuovendo anche delle cose tra le formazioni politiche istituzionali, ma sono proprio pochi che si battono contro il nucleare, nonostante si siano addirittura arrivati tassi più elevati del solito di radioattività anche a Tokyo. Comunque, a prescindere da tutto questo, la cosa che è interessante e che non viene riportata all'estero un granché, è che ci sono soltanto 6 reattori che sono tuttora funzionanti in Giappone, più o meno. E molta gente non lo sa neanche in Giappone, il che significa che il Giappone ovviamente non ha questo bisogno vitale di energia nucleare come il governo e le varie compagnie del nucleare vogliono far credere. E le proteste veramente in Giappone si avviano in modo piuttosto indiretto e molecolare, cioè molto disarticolato. Per esempio, c'è tuttora soltanto un reattore che è stato ricertificato, si trova nell'isola di Hokkaido al nord, e questo nonostante forti proteste locali, ma la dirigenza locale tra inciuci vari tra politici e affaristi è riuscita a far passare questa ricertificazione. Però nel resto del Giappone si verifica una protesta contro il nucleare in diretta, come ho detto, abbastanza importante, proprio tramite qualcosa che equivale quasi come gli assessorati comunali che possono bocciare la ricertificazione di un impianto nucleare se valutato come troppo insicuro. Infatti questo è il modo principale tramite cui sono stati bloccati quasi tutti gli impianti, o almeno quelli che dovevano essere ricertificati, eccetto, come già detto, quello nell'isola di Hokkaido al nord. Quindi l'opposizione nucleare c'è ed è ampia, ma tutto a livello locale, una resistenza completamente frammentata che non si unifica a livello nazionale. Però con queste proteste si spera che magari finalmente tutte queste varie realtà antinucleari in Giappone si riuniscano e che si compattino in un movimento a livello nazionale e anche oltre. Comunque Yuko dice anche che la questione nucleare è strettamente collegata alla questione delle basi militari americane. Infatti io le ho chiesto se ci fosse un nesso, infatti c'è. Per esempio, subito dopo il disastro dell'11 marzo scattò l'operazione Tamodachi, che vuol dire operazione amicizia, che coinvolse militari tra Marine e Marines, militari americani, nella bonifica, tra virgolette, del porto di Sendai, che è vicino a Fukushima. Il porto è tra i più importanti nel Giappone, e da lì partono migliaia di tonnellate di derrate alimentari destinate ad altri paesi, cioè è una fonte cospicua di profitti da esportazione. Quindi l'operazione Tomodachi, cioè l'operazione amicizia, serve a dimostrare il legame con gli USA e allo stesso tempo serve a militarizzare la zona, perché ovviamente con l'intervento militare statunitense assiste oppure cioè dà una mano a quello già in vigore dal governo giapponese stesso. E però la cosa che è interessante è che in questo modo si riesce anche a salvaguardare i vari patrimoni della borghesia giapponese e allo stesso tempo controllare il flusso della gente e delle informazioni da dentro e fuori di Sendai e di Fukushima. Quindi c'è uno strettissimo legame tra la presenza militare americana e la questione nucleare in Giappone, e non solo ovviamente. Tutto questo è successo, cioè questo intervento di tra virgolette amicizia, questo intervento militare statunitense è successo dopo la sconfitta del Partito Liberale, tanto per contestualizzare un po' le cose per coloro che magari non hanno dimestichezza con la politica in Giappone. Allora, il Partito Liberale, che in pratica vinceva elezioni dal dopoguerra in poi, il Partito Liberale è il partito come la Democrazia Cristiana fu in Italia, fu sconfitto nel 2009, fu un grandissimo traguardo che prometteva un cambiamento totale della politica statunitense, giapponese, che in pratica è la stessa di quella statunitense più o meno. Ma susseguentemente il partito che venne al potere, il Partito Democratico, con la coalizione degli altri partitini, cominciarono a perdere colpi, specialmente dopo che Hatoyama diede le sue dimissioni il 2 giugno 2010, perché aveva mancato l'adempimento delle promesse fatte, alle promesse fatte in campagna elettorale, tra cui la promessa tra le più importanti era di chiudere una volta per tutte la base americana di Okinawa. Intanto Okinawa era ufficialmente territorio statunitense fino al 1972, molta gente non si rende conto, e quindi beh, e questa era una battaglia molto importante per eliminare la presenza statunitense, cioè la presenza militare almeno statunitense in generale in Giappone. Diciamo che sarebbe una cosa da auspicare anche in Italia al più presto, perché dato che ci sono così tante basi militari americane, varrebbe anche la pena chiudere quelle, spero, magari un giorno. Comunque il terremoto e il disastro nucleare hanno quindi giocato a favore della frazione della classe dirigente giapponese che usufruisce della sussidiarietà agli Stati Uniti e della presenza militare americana. Infatti hanno, come dimostra l'operazione Tomodachi, è stato usato il disastro per rinnovare i legami con gli Stati Uniti, con il governo statunitense e con la presenza delle basi americane nel paese. L'aeroporto di Sendai, inoltre, Sendai il porto, ma anche un aeroporto molto importante dal punto di vista economico per il paese, l'aeroporto di Sendai dispone pure di un aeroporto militare statunitense, cioè qualcosa come Aviano in salsa giapponese. C'è comunque un legame molto stretto tra le grandi compagnie giapponesi e statunitensi, come magari già risaputo da ascoltatrici e ascoltatori, e quindi le ripercussioni economiche di un sisma come a Fukushima è visto con molta preoccupazione da ambedue i governi statunitensi e giapponesi. Comunque Okinawa e altre basi statunitensi in Giappone fungevano e si suppone fungono ancora adesso da basi di supporto per sottomarini nucleari, come minimo, dato che l'industria nucleare fornisce anche, diciamo, materiale che si può usare per l'industria delle armi nucleari, si può anche supporre che ci sia un nesso ben più ampio, ben più preoccupante tra la presenza americana militare e tutta l'industria giapponese da TEPCO in poi e General Electric, eccetera. Questa presenza nucleare in Giappone che non solo è nociva a tutto e a tutte e a tutti, ma diciamo fornisce anche la possibilità di ampliare l'industria militare stessa, specialmente quella statunitense. From someone, an outsider like me, it's always been rather strange that in a country where they've suffered so much from, from the devastation of atomic warfare, from nuclear warfare by the U.S., that they would have a nuclear industry. Right. It's always puzzled me. It is crazy. How could it happen? Do you know? Historically, there was a big campaign, media involved campaign during the 50s. There's a guy I can name called by the name of Matsutaro Shoriki. Allora, ho chiesto a Yuko poi com'è che si spiega la presenza del nucleare in Giappone, che è tra i paesi che ha sofferto di più da non solo dal nucleare in generale, ma anche dall'attacco con le bombe atomiche degli Stati Uniti. Ovviamente per qualcuno che non è cresciuto in Giappone, magari uno come me, è un po' difficile spiegarsi questa situazione. Yuko dice che il tutto risale alla massiccia campagna mediatica degli anni 50, condotta da uno che si chiama Matsutaro Shoriki, un carnefice della Seconda Guerra Mondiale che spazzò via, per esempio, i coreani da Tokyo durante gli anni 30, e lui fu uno dei principali diciamo, attori in questa campagna mediatica, in questa propaganda, la cosiddetta campagna degli atomi per la pace indetta da Eisenhower. Roshariki gestiva il più grande quotidiano giapponese, lo Yomiuri Shimbun, ed era una spia della CIA. Fu anche quello che popolarizzò il baseball nel Giappone, fondò anche la Lega di baseball giapponese, introdusse la pubblicità televisiva, quindi una persona molto molto influente e molto potente. Furono gli industriali giapponesi stessi però a gestire le centrali nucleari in privato e con l'aiuto dello Stato giapponese. Per decenni la gente venne tenuta anche all'oscuro del nesso tra detonazioni atomiche e radioattività e le varie malattie dovute a essa, sprigionata dalle bombe atomiche, e anche le morti, ovviamente. Addirittura una cosa che non si sa in comune o comunemente è che il governo istituì dei limiti di radioattività accettabili ufficialmente, che stanno ben più al di sopra di quelli consentiti nel resto del mondo. Anzi, dopo Fukushima il governo decise addirittura di alzare ulteriormente il limite accettabile di livello di radioattività, quindi così tenendo all'oscuro la maggior parte della popolazione, perché se il livello di radioattività, cioè, non si raggiunge per fare i rapporti ufficiali, allora non c'è bisogno di farne un rapporto pubblico. Però a livello di municipio la gente si sta lamentando e i municipi cominciano a pubblicare i tassi di radioattività locali, anche se sono al di sotto dei limiti accettabili a livello nazionale. È in pratica come un movimento dal basso, la gente reagisce alle proprie realtà che stanno mutando, in cui si segnalano comunque dei tassi di radioattività elevati, e la gente comincia a portare delle lamentele direttamente ai governi di municipio, se non di regione, e così premono in maniera dal basso il governo nazionale. Comunque l'ostacolo principale a diffondere le informazioni su Fukushima rimane la stampa, non solo la censura di governo. La stampa non mette in rilievo, per esempio, il divario tra i livelli di radioattività accettabili ufficialmente in Giappone a confronto con i limiti accettabili in altri paesi. Comunque, quando ci sono rapporti giornalistici si tende a descrivere storie personali completamente decontestualizzate, come se la sofferenza di famiglie giapponesi fossero uniche o eccezionali. Cioè, non si fanno ragionamenti che consenta alla gente di fare un'analisi completa di tutto quello che comporta la diffusione di radioattività da Fukushima al resto del paese e anche ben oltre, perché poi si è riscontrata anche addirittura in California recentemente. Comunque per la prima volta molta gente dal basso, in modo spontaneo, comincia a fare pressione ai propri municipi, e sono specialmente le madri, questa è una cosa da non solo da segnalare, ma da sottolineare, sono le madri principalmente ad agire e a rivendicare i propri diritti riproduttivi, per esempio. Ci sono anche in Giappone gruppi di donne che si organizzano come donne antinucleari, specificamente antinucleari, e questo allo stesso tempo consente a molte di esse di contrastare il patriarcato che, come in Italia, negli Stati Uniti, in così tanti altri paesi, è un sistema oppressivo fondamentale, che tramite i movimenti antinucleari in questo modo si relaziona ai rapporti di forza, rapporti oppressivi quali sono il patriarcato, e sono piuttosto le donne che agiscono, che organizzano, che costruiscono la base del movimento, anche se non è veramente un movimento, cioè un movimento nel senso di persone che agiscono in maniera coordinata, ma queste donne non è che poi si identificano necessariamente nel femminismo e per molte è anche la prima volta che si coinvolgono in lotte politiche in maniera diretta. Quindi questa lotta al nucleare, praticamente spontanea, frammentata dal basso e capeggiata dalle donne, specialmente madri, e sta diventando una lotta politica anche contro il patriarcato allo stesso tempo. Quindi c'è tutto un insieme di cose che sta venendo a galla, che viene messa in discussione, viene messa in questione per quanto riguarda il Giappone nel suo insieme, che è scaturito un po' tutto questo dal disastro che è Fukushima. Per concludere, la Yuko ci vorrebbe far sapere che l'11 marzo ci saranno azioni organizzate da Todos Somos Japón, e spero che leggiate magari il breve annuncio riportato poi sul sito della radio. Comunque si svolgerà un'azione a New York, una grande marcia che stanno organizzando, e Yuko e Sobu e altri di Todos Somos Japón invita chiunque di voi ascoltatrici e ascoltatori voglia collaborare con loro, per magari tradurre dei testi da una lingua all'altra se c'è questa capacità di farlo, ma anche per scambio di idee, per coordinarsi nella lotta, nelle marce, nelle azioni varie tra l'Italia e il Giappone e New York, per esempio. Io certamente sarei più che lieto di fare da tramite. Comunque si conclude questo rapporto su Todos Somos Japón e la lotta antinucleare giapponese, e alla prossima.